In questa campagna elettorale sono emersi dei messaggi molto importanti. Chiunque dei due vinca sarà il segno che l'America ha comunque voluto dimostrare che è ancora una grande potenza, che ancora può esprimere messaggi forti di democrazia, di libertà, chiamando una grande quantità di persone a votare. Certamente i due candidati sono diversi, ma entrambi hanno una visione molto chiara di quello che l'America significa per loro. Quindi è stata una campagna elettorale in cui io credo anche noi, quelli che sono più esperti e meno esperti di politica estera, hanno potuto capire che stava accadendo. Poi io condivido l'analisi di chi dice che la crisi economico-finanziaria ha certamente avvantaggiato Obama negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, e ha creato qualche problema in più a McCain. La visione di protezione, la visione di uno Stato che interviene, che protegge, che è tipica della campagna di Obama, ha fatto premio in un momento difficile.